come sapere, ma ce l'ha Walter il tuo numero, sì? Sì, sì, ce l'ho anch'io, adesso lo chiamo infatti. E vieni al carrozzo, riesco, se mi dovesse servire qualche numero di per aggiustare il condizionatore, già ti faccio una massa, dai, la metto a Walter, diciamo, a lui, eh. Beh, io ci lavoro con le persone che in tutte le scuole superiori che lavoriamo fanno anche i condizionatori, conosco persone serie, brave. Sì. Sì, sei un amico, è un amico e basta, capito, non preoccuparti per questo. Sì, sì, sì, vabbè, adesso diciamo che mi serviva un pochino prima per via del freddo, giù in taverna c'è sempre più fresco, no? Quindi volevo dargli un tettore un pochino quando vanno a riposarsi. Vabbè, comunque in ogni caso vuole aggiustato, quindi perché fa solo freddo, capito? Fammi sapere comunque, dai, non c'è problema. Antonello, mio numero di telefono c'era, al limite se ce l'hai tu quello di Antonello, lo chiamati dal mio numero, non c'è problema. Sì. Ah sì, ok, allora Antonello mandalo, anche lui dal mio numero. E adesso lo dejo un minuto e così te lo mando. D'accordo, va bene. Ok, dai, ti ascolto, adesso provo a chiamare il padre, dai. Certo, non lo guardo, non penso sia risultato. No, no, no, però avevo una previsione. Scappa, ti faccio sapere di via, va bene, ciao. Ciao, grazie per aver lucidato la mente che io ma ci stavo pensando, guarda. Ok, a dopo, ciao. Via. Antonio. Via, scappa. Pensando una cosa, adesso mi ci do la mente. Pensa, che ho pensato a me. Scappa, io quando vuoi parlare sentiva ci la batta. Ehi, troppo reazione. Vedi, è sparito adesso. Scappa, proponio, ci sei? Adesso cercando il mio telefono di Ricos, due minuti. Allora, problema del condizionatore? Sì, ma non sta scaldando, rinfresca solo. Adesso fa anche piacere perché arriva il periodo caldo, quindi ok, ma quando sono quelle nottate un po' umide, insomma, fa piacere anche avere un po' di tepore, dai. Beh, certo. Ma se no non metto di biatti la stufa. Così hanno fatto. Ci hanno comprato una stufa a gas e stiamo viaggiando. Stiamo viaggiando con quella, già scalda subito. Insomma, la cantina è 60 metri quadri, quindi poi c'è qualche. Vabbè, c'è anche il bagnetto, vabbè, ancora lo chiudono, quindi. Ci vuole un po' di tempo per scaldare, però è la voglia. Guarda, un piano di sotto, Sì. Ah, capito. Già scalda anche a gas. Magari ti costa di più, magari, con la corrente risparmi. No, veramente io credo di risparmiare più con il gas, la corrente, vabbè, tanto consuma di più, credo, Già, non credo già. Sì, però mi ha detto che c'è i pannelli, o no? No, quello non è intanto a parte, quella è roba mia, non c'entra niente. Ah. La casa, diciamo che è tutt'una, ma è tutto separato. No, la cosa mia è cosa mia, la cosa loro è la cosa loro, ma loro vengono solo... Vabbè, adesso in questo periodo rimangono un po' di più, perché fa piacere stare in campagna anziché in città, capito? Però in inverno stanno in città. Ah, il tuo genitore? Sì. Tutti in certi periodi se ne vanno in campagna. Dino. Dove andiamo? Cash. Ottimo. Dimmi, Tori. Ehi, chiamalo domani che si sta guardando la partita del Cagliari, non vuole essere disturbato. Io sempre così, Non sei entrato stamattina, credo. Va bene, ti chiamo domani mattina, dai, ci abbiamo d'accordo così. Sì, va bene, già ti trovo una cosa. Ok, dai, continuate. Va bene. Dove vuoi andare? Venerdì? Ma sabato, però... Venerdì ha piovuto molto. acceso perché dovevo fare cosa da barbecue, dovevo finire di incollare, fare qualche cosa, ma c'era il cemento era troppo bagnato per poter fare i lavori che dovevo fare, quindi ho optato per fare altri lavori a casa di mia sorella che aveva delle infiltrazioni, quindi sinceramente non ci siamo neanche sentiti, no? Adesso vediamo il prossimo venerdì o sabato. E tra l'altro non ha tornato il mio numero? No, ancora no, non è arrivato niente. Capoda, ha venduto l'apparecchio. Sì, la mia? Sì. Eccolo qua, è arrivato. Adesso me lo imposto, Tony. E Maurizio, te lo quando vuoi, chiamami poi e ti do di più. Io intanto facciamo così, guarda, ti faccio uno squillo prima che ti addormenti. Ma io sono sveglia fino a mezzanotte l'una, non preoccuparti, poi ci devo ora che stavo addormenti. Oh, tranquillo, mi guardo la televisione, ascolta, vuoi, non c'è problema, ti quando vuoi. Mi puoi chiamare qualsiasi ora, non c'è problema. E io mi facendo gli ultimi due numeri, adesso lo posso squillare. Eccoci, mi memorizzo il tuo. Andrà Bex. Schiappa. Sì, avanti. Avanti. E andiamo, e andiamo. Chiesa. Bello. C'è anche Pompone. Pompetta. Ah, guarda che fruscende. Uno manca rilassarsi in via contravvenzione, bobo. Sì, vabbè, che vuoi fare? Ma poi non c'era... Boh, per quando ho visto io non ho sempre messo la macchina io. Tu pensa che ero con una macchina la bici urbana parcheggiata nel parcheggio degli invalidi. Bastardi, cioè quello lì sono, c'è la sanzione più due punti dalla patente, e chi glieli toglie a loro? Se ne so. Vabbè, preghiamo della salute, i soldi già vanno e vengono. È giusto però. Lo so, cosa vuoi fare? Nulla. Non lo sai cosa l'aveva fatto, la fotografia, ho preso la contravvenzione, però Edison nei posti invalidi. Ma non ne sono niente, perché ti dico, loro sono gli avvocati apposta. Tutti fanno quello che vogliono, nessuno va di nulla. Così è, noi purtroppo stai giocando con gente che ha il coltello della parte del manico, quindi... Un messaggio. Allora, cosa bisogna fare? È arrivato a un certo punto, come ti dica creduno. Vedi, buono della contravvenzione e tu con il coltellino bucando le gomme. Vediamo se poi la rompono ancora. Così ti arricchere il buio, perché stai danneggiando roba dello Stato, non roba loro. Guarda, mi si prende un casino, lo sta mangiando. Sì, non vedi, c'è il recame. Se c'è un divieto, mettilo, mettilo qui sì, non ce n'è il divieto lì di parcheggio. Non ce n'è, non finne, capito? Non c'è nulla. Io ho sempre messo la macchina lì. Tutti i figli di buona mamma. Tutti quelli che ce l'ho a destra e a sinistra, tutti i multa l'ho preso. Scusate, Eugenio sta mangiando, non parlate. Gabba. Vai così, vai su Google e guarda tutta quanta la zona, beh, se ci sono i cartelli. Ci vede? Ragazzi, sto facendo la pizza, un attimo, tranquilli. Ah, mamma mia, se prima niente. Beh, io ve la prendevo la cosciotta di porcetto, va. Scappa. Sai, se va via, ma così la baganietti, la battuglia. E di buona di multa, la sabbata, tu con un temperino, andende. Sì, no. Ma sì, ma vedi quelle cose belle che c'hai appese? Sì, però mi sa che non ne ho tantissime, Capa, bianco un attimo che vado giù in bagno. Più che belle sono buone. Ho capito, non è salsiccia l'altro, cosa è prosciutti, lo sai? No, quello è guanciale. No, quello no, perché sono metà e quindi l'ho fatto per me, dai. Perché qua è successo di maiale? Allora, ma solo di quello lo faccio. No, adesso mi sono fermato perché inizia il caldo e quindi quelle che ho me le tengo per me, diciamo, perché a quando novembre. Ho capito. Lui arriva quella fare là, io comincio a affettare, poi gioco con Giuseppe. Anche qua vuole farmi, anche Gianluca vuole farmi. Vabbè, perché lo vedi su Facebook? Allora. Oia, questo è il zombie. Ui, ma adesso è entrato una sacca per domani, che sennò me li dimentico. E poi vado a mangiare, non trovo niente. Che... Ma tu finisci è passato. Adesso mi tocca sabato, domenica prossima a lavorare. Mannaggia Bubbiana, ragazzi, mannaggia Bubbiana. Ditemi quello che volete, ma io non ne ho più voglia. Guarda, io ti posso dire pregati la salute e augurati sempre il lavoro, poi del resto, insomma, del resto va avanti. Quanti anni hai lavori? Cosa? Quanti anni hai che stai lavorando? Sicuramente più di me. Io lavoro da lunedì al venerdì e sabato un extra con qualche amico, diciamo che un corso mi sto mandando perché ho anche cosa da fare qua a casa, capito? Prima che arrivi col mezzo, perché sennò non ho posto per parcheggiarlo. Ma dico, ma quant'è che lavori? Non da qua, io lavoro da lunedì a lunedì, sabato e domenica non ne ho, Natale e Capodanno non ne ho. Ma io lavoro già, sono entrato nel 31° anno. Sì, io lavoro dall'89. Io sono entrato nel 91, quindi siamo lì. Anzi no, bugia mia, 89 no, dal 90, per essere preciso. E allora siamo lì, io sono entrato nel 91, primo gennaio 91. Che stavo rientrando in azione del Capodanno. Sono qua alle 7 del mattino a casa e ha curato il telefono, il capitano ha detto che può presentarsi in Tibunia entro mezz'ora. E come faccio adesso? Vabbè, non ti lamentare, che è andata bene, è andata a buon fine, dai. Sì, perfetta, non ci lamentiamo. Inizio a sentirlo, la storia di lavorare sempre sabato e domenica, la tarica qua, inizio a pesare, ecco, capito? Non so, però vabbè, i benefici vengono sempre dopo una lunga fatica e sacrificio che fai. Speriamo, prima di cambiare la legge. Che stanno cercando di far passare la legge 40 anni con 41 anni con contributi e poi andare in pensione a prescindere dall'età. Non sarebbe una cattiva idea, E noi al posto lavoro, diciamo, seguiamo molto queste cose qua e stanno cercando di far approvare perché vogliono arrivare la quota a 100. Una delle tante soluzioni è questa qua, arrivare a 40 anni contributi, a prescindere dall'età, via per lui di andare. Però c'è il conto, perché se iniziano ad mandare via gente in pensione e non reintegrarla è un problema. Ma per forza la devono integrare, come fai a... poi lì nel tuo lavoro prima magari c'era da scaricare una cosa, cioè c'era magari una cogliata, però adesso prima una, due anni al giorno, adesso credo che sia molto di più, no? Insomma, beh, per dire, quindi il lavoro è... adesso vabbè, forse si è fermato un pochino, ma credo che le navi, quelle da trasporto merci siano più frequenti, Sì, ma noi anche il lockdown totale abbiamo sempre lavorato, avevamo preso come passo si blocca un po', ci ripulsiamo, invece no, le navi sempre piene, sempre piene. E vabbè, comunque è meglio che ci sia, dai. Beh, caspita, bisogna dire che siamo in un'isola, quindi la cosa deve entrare e uscire. Certo, qua cosa lì ci salva noi, che siamo in un'isola, perlomeno nel mio settore. Sì, allora, magari in altri è un po', lo vedo un po' in una maniera un po' brutta, perché i produttori magari qua producono ma non viene pagata la loro produzione perché arriva da fuori, e ci sono i pro e i contro. Sì, sì. No, io adesso mi registro come rom, il capo ce l'ho, non me lo vado a guidare da qualche parte. Sì, ma con quello non sei credibile. Sì, come l'ho rubato. Ah no, non sei credibile con quello. Però da ieri mattina a presto sono andato a Sentino, alle Filippine, sono andato con la via sosta. No, stavo parlando stamattina con un amico che ha fatto lo stesso passo che ho fatto io, quindi siamo in aspettativa entrambi. Ma poi lo facciamo tappare di qualche giorno, speriamo, Ma si sta di un bene, ma si sta di un bene. Adesso domani adesso ieri sta tutto il materiale, fa il barbecue bello. Via Rosarita è. Sì, vabbè, io sono anche molto amico del sindaco, Antonio, del cugino, insomma, conosco un po' di gente di Argentina. Perché se vado credo che devo fare da casa a casa, quindi per andare in sordina. Ma non è Argentino. Prima, come c'è, l'hanno fatto una nuova rotatoria lì. Posso dire, non solo per forti, c'è una nuova trota, subito dopo il distributore EQ, cosa è? Un distributore strano, quindi c'è una rotatoria nuova, ma c'è la rotatoria, c'è un ristorante, e c'è subito dopo il ristorante c'è l'entrata, c'è una scritta B&B grande, attaccata al muro, entri lì e c'è la via sosta, va bella, ci sta di un bene, guarda, allucinante. Poi è molto riparata, lo tocca anche il vento, bellissimo. Dovrebbe essere, credo, vicino a quel B&B di un amico mio, Giovanni Sicchi, dovrebbe essere lì. Ti ripeto, se parcheggio lì, sono già dritto, mania di momento. No, la mia sosta è di Peppino. Peppino. Benidas. Non lo so, quello sono un po' senza andarci. Sono un po' perché io, vabbè, andavo quando ero in Europa, andavo lì a Pazzona, ancora a Itti, ma più che altro a Pazzona. No, io a me non mi piace andare a Fiesa, a Pazzola, non mi piace. Non mi piace proprio stare in libera lì a me. Preferisco le aree sotto i campici. E da vedere, insomma, io ho iniziato tanti anni fa a fare libera così, con un rotto, con una macchina attaccata addirittura lì a Pazzona, proprio vicino al bar di, non mi ricordo come cacchio si chiama, c'è un nome strano questo ragazzo, vabbè, comunque sia, ho fatto qualche anno anche lì, ed era bello. Io facevo, vabbè, venerdì, sabato, domenica. Facciamo entrare anche gli altri, che mi sono qui in fondo. Sì, ma quanti vuoi entrare? Eccomi qua. Adesso sono qua neanche Antonio, mi. Cosa? Sto appena la roulotte. No, cosa me ne posso? Ah, prendete un camper. Scappa. E quando potrò, me lo piggio. Quando avrò la possibilità. Bene, Antonio. Avevo le burri di mamme. Ma non sei travagliente, e butta questi soldi che stai sempre a conservare. E ecco la conserva, ecco il registro. Oggi noi abbiamo la cosetta, giusto? Io sono del 70. Sì, 70, e vado, vai, 3 anni di differenza abbiamo. Tu sei più giovane, così? Io sono del 83. E tu sei grande di mia moglie, Devo fare 8 40, 48. Andare. No, io a ottobre invece 51. Andare, vai, quando siamo lì. Se Dio vuole che ci assista. Chi c'era? Anche Luca. Vabbè, poi no, è quello X. C'è solo Antonio allora. Oh, aspetti, sono. Aspetti. Non la fa, non la buca, se la fa, a Fiori. A Fiori. C'era un gente che conoscevo, il produttore, scolato col camper. Oh, mamma. Ecco qua. Se può dire così, ti ho mandato in comunità. A 200 seccati. A Volterino, Volterino, più mi farai. A chi? A Walter Secchi. A Walter, dopo non lo vedo. Come ci si incrociava, ha portato al suo abito, non lo vedo. Da poco ho visto a Sabrina, il fratello. Ma no, sono io non lo conosco. Quando io sto andando un po' con Walter, quando credo che scendevo la sentina, ma... allora facevamo qua fuori da ragazzi, quindi. Beh, se Walter era una vita, non una vita non lo volevo, sai che fine ha fatto? Poi che aveva preso lo scoglio lungo in gestione, però poi... Io qualche volta lo vedo su Facebook. Io non penso che sia prodotto adesso al lavoro. Non lo so neanche io. E la prodotto c'è il dossier, perché ci sono rimasto solo io, la prodotto che lavora. È diventato molto ragazzi, dovevo qualcosa di veramente brutto, disperato. Insomma, e Gianni lo conosci, Gianni De Rio, guarda che la moglie aveva il Bardonira lì a produttore. Gianni De Rio? Sì, lui ce l'ha accorta però, eh. Gianni De Rio, Gianni De Rio, cosa fa la moglie? Il Bardonira, cos'è, via Sassari, con la via principale. Gianni De Rio. Ma è il padrone del bar? La moglie con i fratelli, ha un fratello, credo che abbia, non so. Se è il padrone del bar 2000, sì, diciamo che ci conosciamo di vista, di persona, però di vista ho capito chi è. No, non è il padrone del bar, la moglie è la padrona, lui fa un altro lavoro, lui fa il stesso lavoro, fa scalatorista lui. No, e allora non è lui, sono... Di Dio, ma magari vedendolo, So che ha due figlie, però sinceramente sono anni che non lo vedo, le ho anche conosciute, però sinceramente sono anni che con lui, vabbè, ci vediamo, ci sentiamo spesso, però non saprei cosa stanno facendo, cioè come si chiama, ecco. Ho capito, la traghetta di prodotto la scorsi, da Luca e a questo tipo. Al momento no, non mi viene nulla, no, anche perché ho frequentato qualche un ragazzino, quindi non è che le frequenti, che me li ricordi. Vabbè, a Luca lo conosci così al calcio, giusto? Tramite i figli. Sì, esatto. Sì, e conosco un altro produttore, spero non mi chieda da che cavolo si chiama, perché ci vediamo tutti i giorni, Ci vediamo tutti i giorni perché sto lavorando io, so che sono due gemelli, però credimi, non mi ricordo come si chiama, ma qualcuno mi dica anche a questo, so che il figlio gioca con loro come figlio, ma è entrato da poco, raramente ci parliamo, perché lui è carpentiere, io faccio tutto il lavoro, quindi ci vediamo lì giusto in mezzo, ciao, basta. Tu hai gemelli, mi hai detto, ma biondo con gli occhiali degli occhiali? No, tutt'altro, ho capelli neri, alto, magrolino, occhi scuri, con la barbetta. Lo fisco del gemello, ma uno è in vita del gemello? Sì, credo di sì, perché io ho un gemello, poi ci dimentica a me, che ha ragione scura. Poi non so, perché ripeto, magari vedendolo ci conosciamo anche, non so. Se capita non lo faccio vedere come si chiama, sinceramente non la ricordo, magari me l'avrò anche detto, ma io per i nomi cazzo sono un casinato. Poi magari se dici Eugenio il produttore, ma mi conosco un po' tutti, non per via della moto, perché mi dici Eugenio, chi è Eugenio, mi dici all'arlo, oppure mi dici portuale, mi conosco tutti. Beh, sì, ma poi insomma, il produttore come può essere... sa, sono andato in voce, insomma, si conosceva un po' con tutti. Sì, poi bisogna avere anche qualche, quanti anni ha. È l'età nostra. E allora dopo probabilmente li conosce, sicuramente. Tanto, vabbè, finito hai. Quanto ne ritigli? Ancora. Antonio! Ma è già un attimo, un gioco sempre con la bombola a quello che cade giù. Allora. Beh, sì. Senti di modo male, se coincide, che io devo andare in cucina, no? In sala che c'è misura, è troppo miscurico. Che domani, mamma, non ci vuole manco pensare. Vai, vai, non c'è problema, io mi trattengo la propria pure, però. La roba per domani è che io faccio correttive. Beh, rimango altri 5 minuti qua e poi. Anche perché oggi non ho neanche fatto la pennichella, Babù, ciao oggi, ci sentiamo, a domani, se coincide. Buona giornata per domani. Ciao, ci sentiamo, buona nottata. E poi mi sono sotto a disposizione per quella cosa là, che lo facciamo subito. Vai, ciao, ciao. Sì, devo aspettare a Monica o a Laura, vediamo. Questo oggi sono Giuseppe, e Monica. Ah, vabbè, lei non ha visto, ha visto la figlia. Ah, la figlia, ho capito, va bene, vai. Ciao a tutti lì, ciao, buonanotte. Via, ciao. Ciucucciù. Ehi, te sei andato? Stavo mangiando. Andiamo a comandare, andiamo in tangenziale. Cosa avete, cazzo? Per carità, che ci mancava anche le bagasse, cazzo, questa cosa. Su Cibitaca. Ma ho sentito. E vabbè. Io ce l'avevo messo un altro, ma poi non l'ho anche tolto. Non mi piace ancora, non la sa cosa, dai. Però c'è già adesso, che una si chiama Delizio, si chiama. Mi hanno chiesto che lavoro fai, è il lavoro più antico del mondo. E poi ho risposto, di quale parte sei, dice, a me piacciono le parti, i paesi bassi li piacciono. Ci mancavano solo quelle, ragazzi. Non bastava tamburello. Guarda, tu vedrai che ora si riempie ancora di più la frequenza. Quella frequenza lì. Perché tanto se non sono... Non voglio essere volgare, comunque. Mi hai capito. Non sono contento, quindi. Il casino è lì. Ho sentito una cosa stasera, la verità. Stavo girando. Si chiama Cimbrava, si chiama. E le cibili Sassari, poi vedeva un altro di Gagliari veniva, no, un altro, aspetta, come cavolo si chiamava, il nominativo, affanco, non mi viene in mente adesso. Ma comunque ce ne sono due, una di Cagliari ce n'è. Ah, di Cagliari, Una di Cagliari, poi ce ne sono due. Cimbrava di Sassari, e anche l'altro, Zellia, si fa chiamare. Io sinceramente l'abbiamo provato con Walter, quando è partito il NAV, ho provato sino alla bocca di Bonifacio, poi ci siamo persi. Ah, ma sei andato in cose locale tu? Se avessi messo l'altra gruppo. Tranquillamente ti avrebbero accompagnato fino in Germania. Vabbè, non sono fatto lì, poi vabbè, diciamo che dovevo prepararsi la gabbina, tutto quanto, quindi finché ci siamo sentiti bene, ok, dopodiché siamo salutati e basta. Capito, no, io non ho mai provato molta distanza, la verità. Mi ricordo una volta che ci avevano fatto il regalo appena hanno fatto l'applicazione, a Natale era 100 km. fino a cosa arriva? Quasi fino a Cagliari. Compresa la zona della Maddalena, eccetera, eccetera. Bene. Ui, ragazzi. Cazzo ci imbrava, ragazzi. E tu, tanta resa magnagava, io ho detto. Cazzo ci imbrava. Ho messo le... la mappa, no, stavo controllando, ragazzi. Proprio vicino a me, era. Anche 6 chilometri, figurati. Come ho detto, non mi attivo suo di CB, che adesso non mi viene in mente il nome. La verità, comunque lavorava col CISOM, lavorava lì in ambulanza. Non so. Gassottello era. Basso Gassottello era. Però non mi viene in mente il nome nativo adesso. Stasera l'ho acceso, per la verità. Così per sbaglio. Ah, ascoltare, mi sono fatto un giro di canale. C'era poca gente finché non sono arrivato in... mi sembra che era su 17 o quello che era. Buono era. E c'è questo... questo cosa, uno la stasera è andato a Cagliari. Prima l'ho ascoltato, poi sono entrato. Sempre stato un casino lì, io ce l'avevo giusto per ascolto, quando lavori molte volte te lo metti così a sentire cattate di però vabbè, non so, no, questa l'ho acceso adesso ha fatto mettere l'applicazione all'amica sua e non riuscivo a entrare, evidentemente sono tutti e due nuovi, evidentemente, capito? E gli hanno chiesto che lavoro faceva, gli ho detto che faceva in pratica la... cazzo, il lavoro più antico del mondo, cazzo. Sì, vale un pezzo, ho detto tra me, cazzo. Se fosse stato in 27 gli avuto, l'avrei avuto, cazzo. Come minimo, cazzo. Battuto anche l'amica sua, stava. Dicevo, adesso sono sapendo che niente anche l'amica mia, anche lei fa lo stesso mestiere, ha giunto a conti, senti. Evidentemente devono essere in crisi, a mettersi questa applicazione evidentemente a beccare gente, tipo come si faceva un periodo, per dire che chiamavano i camionisti, te lo dico, quando passava a Miserios, c'era quella che c'era nel bar, chiamava il camionista a pigliarsi il caffè e gli faceva pagare il caffè e anche il resto. Allora. Certo. Quello me lo ricordo sempre, poi quel bar ha fallito, è rimasta solamente anche la sua parte, è rimasta, adesso mi sembra che non c'è più manco quella, mi pare a pezzi. Non so. Aveva la mia 27enne quei periodi, allora abitavo in Fierizzito, la sentivo, da qui Miserio, manco va vivo io, anch'io. La verità la sentivo perfettamente, arrivavo quasi 9. Ascolta, non è che hai qualche antenna che non stai utilizzando per la 27, qualche 5 ottavi però, che la voglio piazzare nel container, perché ho una PLC 2002, così, boh, non mi ricordo più neanche come cazzo si chiama. La Turbo 2001? No, quella è una macchina, ma poi la Turbo 2001, sì. E quella l'ho comprata 3 mesi fa la Fusaro, 56 euro me l'ha fatta pagare con la magnetica. Ehi, vabbè, ma la voglio togliere, non avevo abbasso il segnale, insomma. Prendete qualcosa di più importante, No, non ne ho tante, c'è solo quella, la magnetica, ma quella la uso di riserva quando ho pigliato la magnetica e poi mi ho comprato l'apparato omologato. Il Polma ZX40, cazzo, il primo periodo del lockdown me l'ha fatto pagare quasi, se veniva mi pare 50-60 euro, quasi 80 euro mi è venuto, 26 euro di pacco mi ha fatto pagare quell'imbecille. Beh, quello che faccio. Tu quanto mi preparo proprio per domani e poi se non vuoi da rientro, se no se ne mangio anche un mozzo. Sentiamo più tardi nel caso, eh. Ciao, divertitela. Ehi, d'accordo, già ci sentiamo, ok. Alle prossime. Ciao, ciao, ciao.